eccoci qua, giornali di oggi un po' in ordine sparso perché non ci sono titoli forti, notizie che conquistano diciamo tutte le prime pagine dei giornali. Allora cominciamo con il Corriere della Sera che dedica il titolo principale ancora all'azione del governo, alle parole di Renzi: riforme la fondo di Renzi, non cambio la legge elettorale, una parte di Forza Italia vedrete che la voterà. Berlusconi e Salvini trattano invece sul tema delle regionali. Alfano, in una intervista al Corriere che vedremo tra poco, dice no, bisogna dire no ai giustizialisti del Partito Democratico, e questo è un tema caldo della settimana. La giustizia col DDL anticorruzione slittato ancora, e questa non è una buona notizia, con la discussione all'interno del governo sui tempi della prescrizione di cui si è parlato abbondantemente in settimana. Allora andiamo a vederla subito l'intervista di Alfano su questa questione qua. Bisogna sconfiggere, diciamo, i giustizialisti del PD, il Premier non può farli prevalere. A proposito di questa benedetta questione della prescrizione, siamo favorevoli agli... perché Alfano, insomma, non ha votato col governo su questi aumenti dei tempi per la prescrizione voluti dal PD e voluti dal ministro Orlando, perché sulla corruzione in particolare, per evitare i colpi di spugna, siccome la giustizia in Italia va a passo di lumaca, allora per non diciamo far cadere questi processi bisogna allungare i tempi della prescrizione. Questa è la tesi del ministro Orlando. Però, dice Alfano, siamo favorevoli agli aumenti degli anni di prescrizione, una prescrizione ancora più lunga per i reati di corruzione, ma una parte del PD ha imposto aumenti ulteriori, non più ragionevoli. Non scarichiamo sui cittadini la lentezza della giustizia. Se un uomo viene assolto dopo 30 anni, che se ne fa della soluzione? Questo è l'argomento usato da Alfano, che poi fa un esempio interessante e dice: reato di corruzione per atto contrario a dovere d'ufficio, la prescrizione è stata portata da 10 a 15 anni e mezzo. Il voto in commissione che noi abbiamo avversato l'ha fatta arrivare a 18. Sono convinto che con Orlando e la Boschi troveremo un punto di accordo. Non è Renzi che ha voluto questo ulteriore innalzamento dei termini. Cioè, riassumiamo, perché i termini della prescrizione sono aumentati in questi anni. Prima della Severino per questo tipo di reati erano 4 anni. Cioè in 4 anni un reato di corruzione veniva estinto. Poi sono passati a 10 anni con la Severino. Adesso il governo sta valutando di portarli a 15. In commissione si è pensato di portarlo addirittura a 18 e lì Alfano ha votato contro. E qui, insomma, è possibile che un accordo su questo venga trovato. Alfano che punta il dito contro, diciamo, la minoranza del PD che cercherebbe di sabotare un po' tutto ancora una volta. Poi c'è anche l'altro tema, sempre sulla giustizia, annoso anche questo, da anni che se ne parla, il falso in bilancio. Cioè, presenteremo un emendamento, un punto di equilibrio, dice Alfano, che tuteli le imprese piccole, le medie e gli imprenditori in buona fede. Deve essere punito solo chi ha consapevolmente tratto in inganno. Però la domanda è, insomma, con queste pene non si potranno più intercettare le società non quotate, mentre il Presidente del Senato Grasso nella sua bozza prevedeva intercettazioni per tutti sul falso in bilancio. E naturalmente Alfano che dice: sulle intercettazioni ci sono stati già troppi abusi, si tratta di uno strumento molto invasivo. Vedremo insomma se un accordo nel governo sulla giustizia arriverà in settimana, come è arrivato su altri capitoli, il Jobs Act eccetera eccetera, e chi scontenterà eventualmente, se la sinistra del PD o i centristi di Alfano, che però in questa intervista dice anche, insomma, lascia intendere un messaggio: sono già abbastanza soddisfatti, quindi su questo potrebbero mollare. Soddisfatti da cosa? Abbiamo raggiunto, dice Alfano, un risultato straordinario, che è quello della responsabilità civile dei magistrati, per quanto in diretta. Sempre sul Corriere, una notizia curiosa è questa. No, intanto restando alla politica, la sfida di Fitto anche sul logo del partito. Che succede? Perché è un destino di carte bollate, un assedio che è più di un'ossessione, perché se da un lato Berlusconi teme di perdere la sua libertà personale per effetto del codice penale, rischia anche di perdere il suo simbolo per via del codice civile. E mentre Salvini minaccia ciò che resta del suo impero con una scalata elettorale, Fitto, per difendersi dentro il partito, però è pronto a ricorrere per inibire l'uso del logo Forza Italia alle regionali. Vabbè, insomma, le solite carte bollate intorno ai simboli dei partiti ogni volta che diverse fazioni litigano tra di loro. Ma la notizia che curiosa che viene dalla Grecia è questa. Nel piano, diciamo, col quale la Grecia cerca di rialzarsi, c'è anche la lotta all'evasione fiscale. Insomma, nella settimana in cui anche in Italia l'Agenzia delle Entrate ha previsto la possibilità per i suoi dipendenti di segnalare con degli strumenti, diciamo, informatici interni su dei siti interni dell'Agenzia delle Entrate comportamenti, diciamo, a rischio, no? Di colleghi che magari hanno beggiato il cartellino poi sono spariti, oppure si vedono arrivare strani regali in ufficio, non lo so, cose di questo genere. Adesso l'Agenzia delle Entrate vara questo piano in Italia per si chiama così, quello del piano delle soffiate, no? Insomma, se ne è parlato in settimana, tutti i governi, tutti gli stati cercano di correre ai ripari per trovare in ogni modo la maniera di mettere un freno all'evasione fiscale. La Grecia arruola gli studenti e i turisti contro gli evasori. Come? Armandoli di telecamere e registratori nascosti per documentare l'evasione. È questo il piano esposto dal ministro Varoufakis in una lettera mandata al presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem. Leggiamo, sempre sul Corriere, una riforma innovativa per combattere l'evasione delle tasse, utilizzando turisti, studenti, casalinghe come ispettori del fisco sotto copertura, orientata a cambiare la mentalità nazionale dell'illegalità fiscale. Poi ci sono anche altre misure nel piano Varoufakis, come recuperare le imposte arretrate mai pagate dai contribuenti, nuovi introiti dal gioco d'azzardo e anche la risparmi per quanto riguarda la spesa pubblica. Varoufakis parla dell'impossibilità di recuperare l'evasione fiscale con il sistema attuale di controlli. Bisogna quindi assumere per soli 2 mesi comuni cittadini muniti di mezzi audio e video, individuerebbero gli evasori comportandosi da clienti. La novità è che migliaia di osservatori informali sono ovunque, può cambiare i comportamenti dei greci molto velocemente. Questo è l'auspicio del ministro delle finanze greco, cioè trasformare i cittadini greci in tanti piccoli ispettori dell'Agenzia delle Entrate. Prima della prima pausa andiamo sul Sole 24 Ore di oggi, che ha uno speciale sul Jobs Act, che insomma da oggi dispiega tutti i suoi effetti, quindi una guida pratica alla riforma in vigore da oggi, il decreto sulle tutele crescenti previsto dal Jobs Act. Le novità, insomma, lo ricordiamo brevissimamente, sono per tutti i lavoratori dipendenti del settore privato assunti da oggi si applicano le disposizioni del Jobs Act, che sostanzialmente, tra le varie cose, prevedono questo: in caso di licenziamenti economici o disciplinari illegittimi, il lavoratore avrà diritto a un'indennità che è parametrata all'anzianità aziendale, da qua il termine tutele crescenti. Poi ci sono le soglie per le piccole imprese che assumono nuovi lavoratori e superano la soglia di 15 dipendenti, in quel caso si applicano le tutele crescenti per tutti i dipendenti. Insomma, tutte le novità sul Sole 24 Ore di oggi. Leggo solo una cosa, che è la NASPI, cioè la nuova assicurazione sociale per l'impiego, il nuovo assegno che dovrebbe arrivare per i disoccupati. E questo è una novità importante, un assegno, diciamo, universalistico che si affianca, in qualche caso sostituisce la cassa integrazione, dovrebbe riguardare però non solo le aziende grandi ma tutti. Infatti, scrive il Sole, ne beneficeranno tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i pubblici dipendenti. L'accesso è garantito a chi è disoccupato e vanta però contributi, segnatevelo, per almeno 13 settimane nei 4 anni che precedono la perdita del lavoro, cioè bisogna aver lavorato 13 settimane nei 4 anni precedenti e avere versato quindi i contributi, e anche 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Questo NASPI, che però scatterà aspettate, trovo la data, dal 1 maggio del 2015. Poi cos'altro? L'assegno sarà, insomma, ci sono delle soglie variabili, si applica un massimale di 1.300 euro. Sostanzialmente c'è tutto un calcolo che va fatto sui contributi con un moltiplicatore e si vede l'assegno a cui si ha diritto. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, di nuovo a dare un'occhiata ai giornali di oggi. Abbiamo appena lasciato il Sole 24 Ore, che oggi ha una guida pratica alla riforma del Jobs Act, con tutte le novità che entrano in vigore proprio per i nuovi assunti a partire da oggi. Torniamo invece sugli altri quotidiani, per esempio andiamo su Repubblica, dove il titolo principale riguarda ancora una volta indirettamente il fisco. Abbiamo letto la notizia della Grecia che arruola, insomma, anche liberi cittadini armati di telecamera per filmare casi di evasione e denunciarli al governo. Italia-Vaticano, cade il muro sui conti dello IOR. La notizia già anticipata in settimana dall'Espresso, che adesso Repubblica riprende. Di che si tratta? L'ultimo muro del segreto bancario dell'opacità fiscale sta per scadere dopo l'annuncio di Renzi nell'intervista all'Espresso sulle trattative in corso con il Vaticano. Arriva una conferma in diretta al direttore della sala stampa della Santa Sede, Federico Lombardi, dice che sono in corso interlocuzioni con l'Italia per arrivare a questo traguardo, diciamo, far cadere il muro, insomma, sulle informazioni fiscali, per avere una completa trasparenza, un obiettivo che sta a cuore, sì, a Bergoglio, il Papa che sta ridisegnando l'assetto economico e finanziario della Santa Sede. Sono già stati chiusi 3.000 conti allo IOR, in particolare 700 conti laici, cioè di gente che non aveva nulla a che fare con il Vaticano. Un obiettivo però con la trasparenza fiscale che sta a cuore anche al governo, perché in questi ultimi giorni si sono chiusi accordi e intese da parte del ministro dell'economia Padoan con la Svizzera, con il Liechtenstein e con il Principato di Monaco. E quindi adesso si va verso, se questa notizia sarà confermata, anche un accordo di trasparenza con il Vaticano. A proposito di conti correnti e di redditi, Repubblica riporta i dati che come ogni anno sono pubblicati per quanto riguarda la trasparenza dei parlamentari e dei ministri, i loro conti in banca. I più ricchi e i più poveri, insomma, qualche curiosità. I più ricchi, cominciamo con i parlamentari alla Camera. Il più ricco di tutti è Angelucci, Antonio Angelucci, il patron delle cliniche private del Lazio, nonché editore del quotidiano Libero, che guadagna 5 milioni e 2 all'anno. Poi c'è subito dopo uno, giusto per la par condicio, uno del PD, Gitti, 3 milioni e 6. Poi c'è Gutgeld, che abbiamo imparato a conoscere, altro esponente di spicco del Partito Democratico, 3 milioni e 100, e via andare con altri esponenti. Più poveri sono tre del PD, Minnucci, Prina e Bergonzi, che addirittura dichiara 1.743 euro di reddito personale all'anno. Al Senato i più ricchi sono Tremonti, 3 milioni e 3, Ghedini, 2.100, Carraro, l'ex presidente del CONI, ex presidente di tutto, adesso parlamentare di Forza Italia, 1.400.000. I più poveri, la Taverna dei 5 Stelle, Scilipoti di Forza Italia e Bellot, una senatrice, o Bellotto, non so come si pronuncia, della Lega, 83.000 euro. Tra i ministri il più ricco è la Guidi, 278.000, la più povera è la Lanzetta, che non è più ministro, 64.000, poi la Madia, 94.000, Renzi dichiara 98.000 euro. E vabbè, insomma, questi sono già apparsi ieri questi dati su tutti i siti, tutti scatenati a cliccare, a controllare quanto guadagnano i ministri e i parlamentari. La Stampa invece riporta un'altra notizia che riguarda i politici ed è il conteggio sulle presenze in televisione. Politici in TV, Salvini batte tutti, secondo solo a Renzi, ha accumulato presenze televisive per, vediamo un po' se trovo il dato, 73 presenze televisive, oltre 18 ore di parola. Per un totale di 24 ore davanti alle telecamere, insomma Renzi invitato in tutti i talk show, scusate, Salvini invitato in tutti i talk show in queste settimane, c'è un po' la novità del riposizionamento della Lega, chiaramente. Poi c'è da dire che in questa classifica Renzi strabatte tutti con 60 aspetta vediamo il tempo di parola, 55 che cosa ore, quindi diciamo quasi il triplo di Salvini. Poi a seguire Alfano, Berlusconi, Grillo e va bene tutti gli altri. Vediamo ancora qualche altro titolo. Intanto il Fatto Quotidiano che dice questo: amianto e scorie di idrocarburi nei terreni di Expo, ci sono anche rifiuti speciali e pericolosi. Nel sito dell'Expo il consorzio delle coppe rosse che ha vinto l'appalto per la bonifica chiede di raddoppiare il compenso per questo da 58 a 127 milioni di euro, ma non garantisce di finire i lavori entro l'inaugurazione del 1° maggio. Una guerra legale e contro il tempo. Libero invece scrive così, il titolo è: Italia gole, ci spediscono 1 milione di clandestini, aria di invasione. Perché? Perché il Frontex lancia l'allarme, sono sulle coste libiche pronti a partire tra 500.000 e 1 milione di clandestini. E infatti questo è l'allarme che è stato lanciato ieri, anche se il Frontex dice fonti nostre, ma non specifica esattamente di che cosa si tratta. Prosegue Libero, ecco uno dei frutti avvelenati della guerra a Gheddafi. E oggi si scopre che Sarkozy potrebbe averla scatenata per coprire rapporti inconfessabili. Va bene, era questo l'ultimo titolo per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi. Noi ci ritroviamo dopo il giornale radio delle 8, apriremo anche il numero verde e cominceremo a parlare delle buone notizie che vengono dall'agricoltura, uno dei settori che tirano con la crescita degli occupati nell'ultimo trimestre, +7%. A dopo.